corpo di matto è innamorato questo povero babuino ed è geloso. A chi pensa tuo corpo? A te, mia cara, e già tu sola sei quel vago oggetto occupa il mio pensiero. Andiamo a passeggiar, gelata fra i fiori e fra le erbette, per salutarti un mio cielo ti aspetta. Eccomi pronta, andiamo, dove mi aggrada. Ai, ai, questo mio sospiro, faccia la strada, ti